Sezione 3 di Il Decameron. Parte prima. Giornata prima. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Letto da Emanuela. Il Decameron. Parte prima. Giornata prima. Di Giovanni Boccaccio. Introduzione, parte seconda. Ed erano radi coloro i corpi dei quali fosser più che da un 10 o 12 dei suoi vicini alla chiesa accompagnati, li quali non gli orrevoli e cari cittadini, ma una maniera di beccamorti sopravvenuti di minuta gente, che chiamar si faceva becchini, la quale questi servigi prezzolata faceva, sottentravano alla bara, e quella con frettolosi passi, non a quella chiesa che esso aveva anzi la morte disposto, ma alla più vicina le più volte il portavano, dietro a 4 o a 6 cherici, con poco lume e tal fiata senza alcuno, li quali con l'aiuto dei detti becchini, senza faticarsi in troppo lungo ufficio o solenne, in qualunque sepoltura disoccupata trovavano, piuttosto il mettevano. Della minuta gente, e forse in gran parte della mezzana, era il ragguardamento di molto maggior miseria pieno, perciò che essi, il più o da speranza o da povertà ritenuti nelle loro case, nelle loro vicinanze standosi, a migliaia per giorno infermavano, e non essendo né serviti né aiutati da alcuna cosa, quasi senza alcuna redenzione, tutti morivano. Ed assai n'erano che nella strada pubblica, o di dì o di notte, finivano. E molti, ancora che nelle case finissero, prima col puzzo dei loro corpi corrotti, che altrimenti facevano a vicini sentire sé esser morti. E di questi e degli altri che per tutto morivano, tutto pieno. Era il più da vicini una medesima maniera servata, mossi non meno da tema che la corruzione dei morti non gli offendesse che da carità la quale avessero a trapassati. Essi, e per sé medesimi e con l'aiuto d'alcuni portatori, quando averne potevano, traevano dalle lor case li corpi dei già passati e quegli davanti alli loro usci ponevano, dove, la mattina specialmente, n'avrebbe potuti veder senza numero chi fosse attorno andato, e quindi fatte venir bare, e tali furono che per difetto di quelle sopra alcuna tavola ne ponieno. Né fu una bara sola quella che 2 o 3 ne portò insiememente, né avvenne pure una volta, ma se ne sarieno assai potute annoverare di quelle, che la moglie ed il marito, li 2 o 3 fratelli, o il padre ed il figliuolo, o così fattamente ne contenieno. Ed infinite volte avvenne che andando 2 preti con una croce per alcuno, si misero 3 o 4 bare da portatori portate di dietro a quella, e dove un morto credevano avere i preti a seppellire, n'avevano 6 o 8 e tal fiata più. Né erano perciò questi da alcuna lagrima o lume o compagnia onorati, anzi era la cosa pervenuta a tanto che non altrimenti si curava degli uomini che morivano, che ora si curerebbe di capre, perché assai manifestamente apparve che quello che il naturale corso delle cose non avea potuto con piccoli e radi danni a savi mostrare, doversi con pazienza passare la grandezza dei mali eziandio i semplici far di ciò scorti e non curanti. Alla gran moltitudine dei corpi mostrata, che ad ogni chiesa, ogni dì e quasi ogni ora concorreva portata, non bastando la terra sacra alle sepolture e massimamente volendo dare a ciascun luogo proprio secondo l'antico costume, si facevano per i cimiteri delle chiese, poi che ogni parte era piena, fosse grandissime, nelle quali a centinaia si mettevano i sopravvenienti. Ed in quelle stivati, come si mettono le mercanzie nelle navi a suolo con poca terra, si ricoprieno infino a tanto che della fossa al sommo si pervenia. Ed acciò che dietro ad ogni particolarità le nostre passate miserie per la città venute più ricercando non vada, dico che così inimico tempo correndo per quella, non perciò meno d'alcuna cosa risparmiò il circostante contado, nel quale, lasciando star le castella, che simili erano nella loro piccolezza alla città, per le sparte ville, per li campi, i lavoratori miseri e poveri e le loro famiglie, senza alcuna fatica di medico o aiuto di servidore, per le vie e per i loro colti e per le case, di dì e di notte, indifferentemente, non come uomini, ma quasi come bestie morieno. Per la qualcosa essi così, negli loro costumi, come cittadini divenuti ascivi, di niuna lor cosa o faccenda curavano. Anzi, tutti, quasi quel giorno nel quale si vedevano esser venuti la morte aspettassero, non d'aiutare i futuri frutti delle bestie e delle terre e delle loro passate fatiche, ma di consumare quegli che si trovavano presenti, si sforzavano con ogni ingegno. Perché addivenne che i buoi, gli asini, le pecore, le capre, i porci, i polli ed i cani medesimi fedelissimi agli uomini, fuori delle proprie case cacciati per li campi, dove ancora le biade abbandonate erano, senza essere, non che raccolte, ma pur segate, come meglio piaceva loro se ne andavano. E molti, quasi come razionali, poiché pasciuti erano bene il giorno, la notte alle loro case senza alcun correggimento di pastore si tornavano satolli. Che più si può dire, lasciando stare il contado e dalla città ritornando, se non che tanta e tal fu la crudeltà del cielo e forse in parte quella degli uomini, che infra il marzo ed il prossimo luglio veniente, tra per la forza della pestifera infermità e per l'esser molti infermi mal serviti o abbandonati nei loro bisogni per la paura che avevano i sani, oltre a 100.000 creature umane si crede per certo dentro alle mura della città di Firenze esser stati di vita tolti, che forse, anzi l'accidente mortifero, non si sarie estimato tanti avervene dentro avuti. O quanti gran palagi, quante belle case, quanti nobili abituri, per addietro di famiglie pieni, di signori e di donne, infino, almeno omofante rimaser vuoti. O quante memorabili schiatte, quante ampissime eredità, quante famose ricchezze si videro senza successor debito rimanere. Quanti valorosi uomini, quante belle donne, quanti leggiadri giovani, li quali non che altri, ma Galieno, Ippocrate o Esculapio, avrieno giudicati sanissimi, la mattina desinarono con lor parenti, compagni ed amici, che poi la sera veniente appresso nell'altro mondo cenaron con li loro passati. A me medesimo incresce andarmi tanto tra tante miserie ravvolgendo, perché, volendo ormai lasciare star quella parte di quelle che io acconciamente posso schifare, dico che, stando in questi termini la nostra città, d'abitatori quasi vuota, addivenne, sì come io poi da persona degna di fede sentii, che nella venerabile chiesa di Santa Maria Novella, un martedì mattina, non essendovi quasi alcuna altra persona, uditi i divini uffici in abito lugubre, quale a sì fatta stagione si richiedea, si ritrovarono 7 giovani donne, tutte l'una all'altra o per amistà o per vicinanza o per parentado congiunte, delle quali niuna il 28° anno passato avea, né era minor di 18, savia ciascuna e di sangue nobile e bella di forma ed ornata di costumi e di leggiadra onestà, i nomi delle quali io in propria forma racconterei, se giusta cagione da dirlo non mi togliesse, la quale è questa, che io non voglio che per le raccontate cose da loro che seguono e per l'ascoltate, nel tempo avvenire alcuna di loro possa prender vergogna, essendo oggi alquanto ristrette le leggi al piacere, che allora, per le cagioni di sopra mostrate, erano, non che alla loro età, ma a troppo più matura, larghissime, né ancora dar materia agli invidiosi, presti a mordere ogni laudevole vita, di diminuire in niuno atto l'onestà delle valorose donne con i sconci parlari. E però, a ciò che quello che ciascuna dicesse, senza confusione, si possa comprendere appresso, per nomi alle qualità di ciascuna convenienti o in tutto o in parte intendo di nominarle, delle quali la prima è quella che di più età era, Pampinea chiameremo, e la seconda Fiammetta, Filomena la terza e la quarta Emilia, ed appresso Lauretta diremo alla quinta, e dalla sesta Neifile, e l'ultima Elissa, non senza cagion nomeremo, le quali non già da alcuno proponimento tirate, ma per caso in una delle parti della chiesa adunatesi, quasi in cerchio, a seder postesi, dopo più sospiri, lasciato stare il dì de paternostri, seco della qualità del tempo, molte varie cose cominciarono a ragionare, e dopo alcuno spazio, tacendo l'altre, così Pampinea cominciò a parlare. «Donne mie care, voi potete, così come io, molte volte aver udito che a niuna persona fa ingiuria chi onestamente usa la sua ragione. Natural ragione è, di ciascun che ci nasce, la sua vita, quanto può, aiutare e conservare e difendere. E concedesi questo, tanto che alcuna volta è già divenuto che per guardar quella, senza colpa alcuna, si sono uccisi degli uomini». E se questo concedono le leggi, nelle sollecitudini delle quali è il ben vivere d'ogni mortale, quanto maggiormente, senza offesa d'alcuno, è a noi, ed a qualunque altro onesto, alla conservazione della nostra vita, prendere quegli rimedi che noi possiamo. Ognora che io vengo ben ragguardando agli nostri modi di questa mattina, ed ancora a quelli di più altre passate, e pensando chenti e quali li nostri ragionamenti siano, io comprendo, e voi similmente il potete comprendere, ciascuna di noi di sé medesima dubitare. Né di ciò mi maraviglio niente, ma maravigliomi forte, avveggendomi ciascuna di noi aver sentimento di donna, non prendersi per noi a quello di che ciascuna meritamente teme alcun compenso. Noi dimoriamo qui, al parer mio, non altramenti che se essere volessimo o dovessimo testimonie di quanti corpi morti ci siano alla sepoltura recati o d'ascoltare se i frati di qua entro, de quali il numero è quasi venuto al niente, alle debite ore cantino i loro uffici o a dimostrare a qualunque ci apparisce, nei nostri abiti, la qualità e la quantità delle nostre miserie. E se di quinci usciamo, o veggiamo corpi morti o infermi trasportarsi da torno, o veggiamo coloro li quali, per li loro difetti, l'autorità delle pubbliche leggi già condannò ad esilio, quasi quelle schernendo, perciò che sentono gli esecutori di quelle o morti o malati, con dispiacevoli impeti per la terra di scorrere, o la feccia della nostra città del nostro sangue riscaldata chiamarsi becchini ed in istrazio di noi andar cavalcando e discorrendo per tutto, con disoneste canzoni rimproverandoci i nostri danni. Né altra cosa alcuna ci udiamo se non i cotali son morti e gli altrettali sono per morire, e se ci fosse chi fargli per tutto dolorosi pianti udiremmo. E se alle nostre case torniamo, non so se a voi così come a me addiviene, io di molta famiglia, niun'altra persona in quella, se non la mia fante trovando, impaurisco, e quasi tutti i capelli addosso mi sento arricciare, e parmi, dovunque io vado o dimoro per quella, l'ombre di coloro che sono trapassati vedere, e non con quegli visi che io soleva, ma con una vista orribile, non so d'onde in loro nuovamente venuta a spaventarmi, per le quali cose, e qui, e fuori di qui, ed in casa, mi sembra star male, e tanto più ancora quanto egli mi pare che niuna persona, la quale abbia alcun polso, e dove possa andare come noi abbiamo, ci sia rimasa altri che noi. Ed ho sentito, e veduto più volte, seppure alcuni ce ne sono, quegli cotali, senza fare distinzione alcuna dalle cose oneste, a quelle che oneste non sono, solo che l'appetito lecheggia, e soli ed accompagnati, di dì e di notte, quelle fare che più di diletto lor porgono. E non che le solute persone, ma ancora le racchiuse nei monasteri, facendosi a credere che quello a lor si convenga e non si disdica che all'altre. Rotte dell'obbedienza le leggi, datesi a diletti carnali, in tal guisa avvisando scampare, son divenute lascive e dissolute. E se così è, che essere manifestamente si vede, che facciamo noi qui? Che attendiamo, che sogniamo? Perché più pigre e lente alla nostra salute che tutto il rimanente dei cittadini siamo? Reputianci noi men care che tutte l'altre? O crediamo la nostra vita con più forti catene esser legata al nostro corpo che quella degli altri sia, e così di niuna cosa curar dobbiamo la quale abbia forza d'offenderla? Noi erriamo, noi siamo ingannate, che bestialità è la nostra, se così crediamo. Quante volte noi ci vorremmo ricordare chenti e quali siano stati i giovani e le donne vinte da questa crudel pestilenza, noi ne vedremo apertissimo argomento. E perciò, a ciò che noi per ischifiltà o per trascutaggine non cadessimo in quello di che noi per avventura per alcuna maniera volendo potremmo scampare, non so se a voi quello se ne parrà che a me ne parrebbe. Io giudicherei ottimamente fatto che noi, sì come noi siamo, sì come molti innanzi a noi hanno fatto e fanno, di questa terra uscissimo e fuggendo come la morte i disonesti esempi degli altri, onestamente a nostri luoghi in contado, dei quali a ciascuna di noi è gran copia, ce n'andassimo a stare, e quivi quella festa, quell'allegrezza, quello piacere che noi potessimo, senza trapassare in alcuno atto il segno della ragione, prendessimo. Quivi sodono gli uccelletti cantare, veggion visi verdeggiare i colli, e le pianure, ed i campi pieni di biade, non altramente ondeggiare che il mare, ed alberi ben mille maniere, ed il cielo più apertamente, il quale ancora che crucciato ne sia, non perciò le sue bellezze eterne ne nega, le quali molto più belle sono a riguardare che le mura vuote della nostra città. Ed evvi, oltre a questo, l'aere assai più fresco, e di quelle cose che alla vita bisognano in questi tempi ve la copia maggiore e minore il numero delle noie, perciò che, quantunque quivi così muoiano i lavoratori come qui fanno i cittadini, v'è tanto minore il dispiacere quanto vi sono più che nella città rade le case e gli abitanti. E qui d'altra parte, se io ben veggio, noi non abbandoniamo persona, anzi, ne possiamo con verità dire molto piuttosto abbandonate, perciò che i nostri, o morendo o da morte fuggendo, quasi non fossimo loro, sole in tanta afflizione n'hanno lasciate. Niuna riprensione adunque può cadere in cotal consiglio seguire. Dolore e noia e forse morte, non seguendolo, potrebbe avvenire. E perciò, quando vi paia, prendendo le nostre fanti e con le cose opportune facendoci seguitare, oggi in questo luogo e domani in quello, quell'allegrezza e festa prendendo che questo tempo può porgere, credo che sia ben fatto a dover fare, e tanto dimorare in tal guisa che noi veggiamo se prima da morte non siamo sopraggiunte che fine il cielo riservi a queste cose. E ricordivi che egli non si disdice più a noi l'onestamente andare che faccia a gran parte dell'altre lo star disonestamente. Fine della sezione 3.